Buongiorno Maria. Buongiorno a voi. Oh, grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, come si presenta quest'estate 2011? Facciamo allora, delle belle previsioni. È un'estate un po' tiepida, devo dire, anche se magari i miei colleghi penseranno un'estate bollente, io la vedo un po' tiepida rispetto agli anni passati. Più che altro, più che all'amore, quest'anno io starei attenta alle fregature, cioè i bidoni, e per chi si avventura in queste vacanze. Ma scusa, no, bidoni amorosi nel senso che so il bagnino... No, bidoni proprio truffe vacanziere. Ah, truffe vacanziere, molto di... Ma qual è il segno più esposto, la truffa? Diciamo che più ingenuotti sono Toro, Sagittario, poi ci sono anche dei pesciolini che si credono un po' furbetti, invece poi dopo... Beh, i pesci sono sempre quelli piccole. Che abboccano poi, fra l'altro. Infatti, però diciamo che forse il segno più favorito in amore in questo periodo, diciamo, sono i Toro e anche l'Ariete, se si vuole un po' rimettere in discussione. Ma il segno più focoso, che al di là dell'anno, al di là della posizione astrologica, quello che si butta di più nelle avventure, qual è? Quello che gli piace, sì, buttarsi sì. A pesce. E sono i Sagittario. Ah, il Sagittario. Non si fanno mancare niente, ecco. Anche gli Ariete, diciamo tutti i segni di fuoco non si fanno mancare niente. E invece quello più soggetto alle corna? È quello che le prende, le corna, diciamo che possono essere o gli Acquario, però perché lasciano tanta libertà, però in effetti bisogna anche controllare un po' il partner. Ecco. Bene, grazie, anche, grazie. Io sono dell'Acquario, dico grazie, sono dell'Acquario. Senti, per il anch'io. Anche tu, va bene. Vabbè, ci uccideremo le corna a vicenda, non preoccuparti. Però siamo troppo buoni. Siamo abbiamo il mio ospite qui, che è Shai, ed è del Capricorno. Lui però lui è di Israele, cambia qualcosa, no? No, tra l'altro è anche protetto, perché diciamo che il Capricorno è nato in Israele, tra l'altro Israele è favorito per gli acquari, Capricorno poi per carità può nascere qualsiasi persona in qualsiasi paese del mondo, essere favorita, però il Capricorno è un segno cardinale, è un segno diciamo che ama impegnarsi, ama le sfide, ama vincere, ma sempre con la testa, quindi secondo me... Con la testa e anche lui con le corna, naturalmente. Quindi poi torneremo tutti a casa, cioè voi tornerete, io sto qui tutta l'estate, tornerete tutti a casa in autunno e cosa faranno? Penseranno agli amori persi o cominceranno a preoccuparsi un po' del lavoro, dell'economia? Ma infatti io consigliavo appunto Acquario, Toro e Scorpione di non andare in vacanza e di occuparsi più del lavoro, perché comunque ci sono delle occasioni ottimali da prendere in questo periodo. Poi magari gli altri segni possono andare in vacanza, però per chi ha l'occasione di rimanere, diciamo, in città, tra virgolette, cogliere le occasioni lavorative, perché in questo periodo di crisi, insomma, non è Tremonti, male, no? Di che segno è Tremonti? Ah, penso un leone. Ah, quindi il leone non... Il leone si prende un po' di mazzate in questo periodo, infatti lui sta cercando, Tremonti, di parare un po' i colpi, ci sta riuscendo bene perché è anche una persona molto intelligente, però ha delle sfide molto importanti. E tu invece dove andrai in vacanza e di che segno sei? Ti sei fatta le previsioni? Allora, io sono Capricorno, cuspide Capricorno Acquario con ascendente Capricorno, me ne sto a casa a lavorare, perché so che è meglio non andare a fare bidoni. Allora siamo in due che siamo qui in città a lavorare.